Capitolo 4. Basilea. 28 marzo 1545. La casa di Johann Hoporinus è grande abbastanza per contenerci tutti. La comunità dei transfughi approdati in Svizzera conta una ventina di persone, protestanti più o meno illustri, cani sciolti che hanno conosciuto le migliori menti della Riforma, amici di Bucero, Capitone e Calvino, che proprio a Basilea ha dato alle stampe la prima edizione della sua Institutio Christiane Religionis. Molti di questi letterati non concordano con i padri della Riforma sulla costituzione di una nuova organizzazione ecclesiastica. La scelta di Bucero a Strasburgo e di Calvino a Ginevra, quella di trasformare le capitali della Riforma in città chiese, non è condivisa da tutti. Molti di quelli che sono fuggiti qua giù si sono scontrati con l'ostracismo dei loro stessi maestri, oggi indaffarati a ricostruire una nuova chiesa che sappia rimpiazzare la vecchia, nuovi dottori che provvedano all'insegnamento catechistico, nuovi diaconi, nuovi pastori e anziani che vigilino sulla vita religiosa e morale dei fedeli. Disciplina è la parola che oggi risuona da un capo all'altro delle terre riformate, una parola che lascia insoddisfatti questi liberi pensatori, gente scomoda per chi aspira all'ordine e alla gerarchia. Hoporinus ci ha convocati per parlare a tutti quanti. Non ha voluto dire di cosa, ma penso si tratti delle voci che circolano sul fatto che il concilio ecumenico, più volte annunciato dal Papa, questa volta si farà davvero, alla fine dell'anno. L'unica faccia nota è David Joris, fino a pochi mesi fa la guida dell'anabattismo olandese. Anche lui è arrivato qua giù con pochi seguaci, fuggendo dalla morsa dell'Inquisizione. Bocholt, agosto 36, il concilio degli anabattisti. Battenburg contro tutti, contro Philips e Joris, ricordo bene, la spada contro la parola. Non credo mi riconoscerà. Sono passati quasi 10 anni. Vedo Pietro Perna scivolare verso una sedia, un paio di libri in mano che adesso sfoglia annoiato, scuotendo la testa tra sé, come trovasse conferma a una pessima aspettativa. Mi siedo anch'io, un po' in disparte. Io di aspettative non ne ho affatto, soprattutto su Hoporinus e la sua cerchia di amici. Apprezzo l'attività del nostro amico stampatore. Paracelso, Serveto, Socini sono autori che possono portare guai, gente che Calvino è disposto a sacrificare pur di assurgere a nuovo Lutero. Ma questo genere di coraggio non può bastare. E anche se i tempi che viviamo forse non ne concedono altro, ho combattuto troppo per eccitarmi ancora davanti a una disputa teologica. Il nostro ospite ci fa segno di abbandonare le chiacchiere. Vuole prendere la parola. Amici miei, la voce è tiepida, il tono pacifico. Vi ho convocati qui quest'oggi perché credo sia utile a tutti noi uno scambio di idee sull'evento che va profilandosi all'orizzonte. Si schiarisce la voce. Vi sarà probabilmente giunta notizia della convocazione di un concilio a cui far partecipare tutta la cristianità divisa per cercare un punto d'accordo e la possibilità di una riconciliazione fra tutte le fazioni. Legge l'assenso nei volti dei presenti. Perna sbadiglia in un angolo, abbarbicato sulla sedia troppo alta, i piedi a penzoloni. Hoporinus riprende. Ebbene, un evento di tale portata non può vederci in disparte, silenziosi spettatori. È molto probabile che per facilitare l'intervento dei migliori dottori della protesta luterana, il luogo prescelto per questo concilio sia la città neutrale di Trento, tra Roma e le terre tedesche, non troppo distante dalla nostra Basilea. Vorreste farci invitare tutti al concilio? Il tono è tra l'ironico e l'incredulo. La battuta proviene da una delle sedie di rimpetto a Hoporinus. Lo stampatore scuote la testa. Non dico questo, ma forse sarebbe opportuno scrivere a Ginevra per far sapere a Calvino e ai suoi che non vogliamo essere lasciati in disparte, che vorremmo dire anche noi la nostra, magari pubblicare qualcosa, anche solo un documento che possa essere letto davanti ai cardinali cattolici. Potremmo scrivere a Serveto a Parigi, fare in modo che componga qualcosa per l'occasione. Dalla seconda fila si alza un uomo pallido e magro, accento francese. Deve avermelo presentato, Hoporinus, ma già non ricordo più il suo nome. Non crederete veramente che Lutero, Melantone e Calvino vorranno partecipare a quel concilio? E perché no? Se i cardinali si sono risolti a convocare un concilio, significa che temono il dilagare della Riforma e sono disposti a un compromesso, magari ad aprirsi ad alcune istanze. Le Roux, ecco come si chiama, concitato. Se Lutero va al concilio non tornerà indietro. E così per tutti gli altri. Se i papisti riescono ad averli a un tiro di schioppo, non resisteranno alla tentazione di prenderli e bruciarli. Li conosciamo troppo bene. Teste che annuiscono. Alcuni storcono la faccia. Perna dondola le gambe e sfoglia, svogliato, i libri che ha in grembo. Alle spalle del francese, Ioris è in piedi, alto e biondo, agitando una mano bianca. Io vi dico che se Calvino e Lutero riuscissero a mettere le mani su alcuni dei presenti, riserverebbero loro la stessa fine. Che ci importa del concilio? Ammesso che si faccia davvero, sarà una trappola per allocchi. E se qualcuno dei corvacci di Ginevra o di Wittenberg ci finisce dentro, non sarò io a compiangerlo. Opolinus interviene per placare gli animi. No, Ioris, questo non dovete dirlo. I dissensi che separano alcuni di noi da Lutero e Calvino non devono spingerci a fare d'ogni erba un fascio, e anche sul concilio non condivido la vostra opinione. L'olandese alza le spalle e si risiede. Fate che quel concilio vada in porto, e di opinione ve ne imporranno una soltanto. Quello che intendo, prosegue lo stampatore, vincendo il brusio che l'intervento dell'anabattista ha provocato, è che Calvino e Lutero faranno di tutto per lasciarci fuori da qualunque trattativa, e se mai concludessero un accordo con Roma, esso sarà dannoso per chiunque non si riconosca pienamente nelle loro proposte. Che ne sarà dei Michele Serveto, dei Lelio Socini, dei Sebastian Castiglione? Lo sguardo di Opolinus percorre la sequenza di volti. Che ne sarà di noi, fratelli? Dalla sedia più esterna, in fondo alla fila, il basilese Serres interviene. Non ci sarà nessun accordo, Opolinus, perché i papisti non cederanno mai sulla giustificazione per opere, e Lutero e Calvino, dall'altra parte, non sono disposti a muoversi di un passo dalla giustificazione per sola fede. Per loro vorrebbe dire lasciare ancora uno spazio al potere anticristiano del Papa, all'indulgenza, alla compravendita della fede. Questo non possiamo saperlo con certezza assoluta, Serres. Esiste più di un cardinale in Italia che invece vede di buon occhio una pacificazione con i protestanti e apprezza la teologia luterana. Esiste già una letteratura in proposito. Piccole cose, forse, ma si tratta di segnali importanti. Avete letto tutti Il beneficio di Cristo? Si dice che il suo autore sia un frate appoggiato da importanti letterati italiani e perfino da un cardinale. Questi sono fatti, fratelli miei, non possiamo ignorarli. Se esiste la possibilità che in questo concilio si apra lo spiraglio di un ricongiungimento e di una riforma radicale della Chiesa romana, io dico che non dobbiamo lasciare l'iniziativa soltanto a Calvino e Lutero. Ne va della nostra libertà. Il suo sguardo fruga il crogiuolo di teste finché non pesca la pelata di Perna. Vorrei sentire il vostro parere, messer Perna. Voi, più di tutti, siete a conoscenza degli affari italiani. Il piccoletto stira le braccia cortissime. Non si aspettava ad essere chiamato in causa. Si gratta la fronte e si alza in piedi, senza riuscire a superare le teste dei presenti. Un lungo sospiro. Signori, ho sentito molte belle parole, ma nessuna è riuscita a centrare il cuore del problema. Tutti lo guardano perplessi, protesi a cogliere l'insolita pronuncia dell'italiano. Potete scrivere o commissionare le più belle opere teologiche del secolo, se questo può farvi sentire meglio, ma non cambierete la realtà dei fatti. E la realtà, signori, è che non saranno le questioni dottrinali a segnare i destini del concilio, ma la politica. È sceso un silenzio tombale. Il piccolo Perna non conosce mezze misure. Mi accorgo che la logorrea sta per rapirlo. Se questo concilio si fa, è per le pressioni che l'imperatore sta esercitando sul Papa. È l'Asburgo che vuole riunire cattolici e protestanti, perché l'impero gli sta sfuggendo di mano, e il turco Solimano, uomo che si dice riesca a soddisfare 20 donne in una sola notte, e che non per niente è detto il grande, lo sta mettendo in seria difficoltà. A Carlo V non importa come e su cose teologi si metteranno d'accordo. A lui interessa riunificare i cristiani sotto la sua bandiera per resistere ai turchi e riprendere il controllo dei propri confini. Scuote la testa. Ora statemi bene a sentire. Giù a Roma c'è un discreto numero di cardinali a cui i roghi piacciono molto. Ma non dovete pensare che questi santi uomini muoiano dalla voglia di arrostire Lutero, Calvino, Bucero e tutti i presenti. Perché, vedete, finché questi eretici, come li definiscono, saranno in circolazione, loro potranno sguinzagliare l'Inquisizione a caccia degli intelletti più scomodi, primi tra tutti i loro avversari politici dentro la Chiesa romana. Da che mondo è mondo, i nemici esterni fanno comodo per mettere in scacco quelli interni. Opolinus ha ragione quando dice che c'è un partito di cardinali favorevoli al dialogo con i protestanti ed è proprio su questi che conta l'imperatore per realizzare il suo progetto. Ma vediamo chi è schierato dall'altra parte. Perna conta sulle dita grassocce. Dunque, abbiamo i principi tedeschi, che è come dire Lutero e Melantone. Quelli, proprio per mantenere l'autonomia da Roma e dall'impero, non hanno alcun interesse a far partecipare al concilio i loro teologi, anzi, se dal concilio venisse fuori che sono tutti apostati, l'imperatore non potrebbe più gridare alla lesa maestà e dovrebbe rassegnarsi a veder perduti i principati tedeschi. C'è poi il re di Francia, che significa tutti i cardinali francesi. 20 anni di guerra stanno lì a testimoniare l'inimicizia di Francesco I per l'Asburgo. Serve altro per dedurre che i cardinali francesi voteranno contro l'ipotesi di una riconciliazione? Infine, ci sono i cardinali romani dell'Inquisizione, quelli che vogliono la linea dura e che osteggiano il dialogo con i protestanti. Perna prende fiato. I volti dei presenti sono attoniti, come se un orso ammaestrato fosse entrato nella stanza. Un istante e l'italiano è di nuovo all'attacco. Il concilio, signori, sarà una resa dei conti tra i potentati d'Europa. Scrivete pure se volete tutti i trattati teologici del mondo. Ma non sarete voi, né Calvino né Lutero, a giocare questa partita. Se volete sopravvivere, dovrete pensare qualcosa di diverso. Messer Pietro, aspettate! Il piccoletto smette di arrancare nel fango. Si gira quanto basta per scorgermi e si ferma in mezzo alla strada. Ah, siete voi! Credevo... La distanza non mi consente di capire il resto della frase. Lo affianco. Cosa intendevate dire? Cosa vuol dire che devono pensare a qualcosa di diverso? L'italiano sorride e scuote la testa. Venite con me. Mi trascina per un braccio al bordo della strada. Ci infiliamo in un vicolo. Il suo modo ridicolo di camminare, come se saltellasse, mi stampa un sorriso irriverente sulla faccia. Quest'uomo ha lo strano potere di mettermi di buon umore. Ascoltate, compare. Qui non c'è più niente da fare. Tutti i vostri amici... Si blocca davanti alla mia mano alzata. Perdonatemi. Tutti gli amici di Messer Porinus sono carissime persone, capito? Ma non andranno da nessuna parte. Gli occhietti neri frugano le rughe del mio volto in cerca di qualcosa. Le loro preoccupazioni si esauriscono nelle divergenze o nei punti d'accordo tra il loro pensiero e quello di Giovanni Calvino. E gente come me, come voi, compare, sa benissimo che le leve del mondo sono ben altre, capito? Dove volete arrivare? Stringe ancora il mio braccio. Su via, messere, non prendiamoci in giro. Se deve essere un libraio italiano a dire loro come stanno le cose, significa che queste bellissime teste non vedono al di là del loro naso. Scrivono trattati teologici per alti dottori, capito? E il giorno che li verranno a prendere per legarli a un palo con qualche fascina sotto, forse allora apriranno gli occhi. Solo che sarà troppo tardi. Quello che intendo, amico mio, è che i giochi sono fatti. Su in Germania ne avete fatto di chiasso e ve le siete anche suonate di santa ragione. E poi ci sono stati gli olandesi, gran buon temponi quelli, matti come cavalli, e adesso i francesi, gli svizzeri, e Calvino che diventa la stella della rivolta contro il papato. Tutte balle, messer mio. Il potere. Il potere! Per questo si scannano. Per carità, non dico che il vecchio Lutero non ci credesse, non dico che l'aitante Calvino non ne sia convinto, ma sono soltanto pedine. Se non facessero comodo ai potenti, quei corvacci neri non sarebbero nessuno, ve lo dico io, nessuno! Mi libero dalla presa, ubriaco di parole. Perna alza le spalle e allarga le braccia incredibilmente corte. Io faccio il mio mestiere, capito? Io sono un libraio, vado in giro, vedo un sacco di gente, vendo i libri, scopro talenti nascosti sotto montagne di carta. Io propago idee. Il mio è il mestiere più rischioso del mondo, capito? Sono responsabile della diffusione dei pensieri, magari di quelli più scomodi. Indica in direzione della casa di Oporinus. Loro scrivono e stampano, io diffondo. Loro credono che un libro valga in sé per sé. Credono nella bellezza delle idee, in quanto tali. Voi no? Un'occhiata di sufficienza. Un'idea vale se viene diffusa nel posto e nel momento giusti, amico mio. Se Calvino avesse stampato la sua istituzio 3 anni prima, il re di Francia lo avrebbe bruciato nel tempo di uno sbadiglio. Ancora non capisco dove volete andare a parare. Saltella sul posto, nervoso. Diavolo, ascoltate, no? Estrae dall'inseparabile borsa un libretto ingiallito. Prendete il beneficio di Cristo. Piccolo, agile, chiaro, sta in una tasca. Oporinus e i suoi amici lo vedono come una speranza. Sapete invece cosa ci vedo io? Una piccola pausa a effetto. Guerra! Questo è un colpo basso! Questo è un'arma potente! Credete che sia un capolavoro? È un libro mediocre, risciacqua e sintetizza l'istituzio di Calvino. Ma dov'è la sua forza? Nel fatto che cerca di rendere la giustificazione per sola fede compatibile con la dottrina cattolica. E questo cosa significa? Che se questo libro si diffonde e ha successo, magari tra i cardinali e i dottori della Chiesa, forse voi e Oporinus e i suoi amici e tutti gli altri non avrete l'inquisizione che vi alita sul collo per il resto dei vostri giorni. Se questo libro trova il plauso della gente giusta, i cardinali intransigenti rischiano di trovarsi in minoranza, capito? I libri cambiano il mondo soltanto se il mondo riesce a digerirli. Tira il fiato e mi scruta per un lungo momento, poi con gli occhi stretti. E se il prossimo Papa fosse disposto a dialogare? E se fosse uno di quelli contrari ai metodi del Sant'Uffizio? Un Papa è sempre un Papa. Un gesto di disapprovazione. Ma vivere e poter continuare a dire la vostra è ben diverso dal morire arrostiti. Fa per raccogliere la borsa e andarsene, ma questa volta sono io che lo trattengo. Aspettate! Si ferma. Guardo questo piccolo uomo che suda astuzia e forza da tutti i pori. C'è qualcosa di Eloi nel guizzo degli occhi, qualcosa di Gotzwalpolnitz nella determinazione della parola. Cosa direste se vi dicessi che non mi importa più di cambiare alcunché? Sorride. Direi che dovreste partire subito per l'Italia, prima che il fango di questa città vi soffochi la mente. Puttane, affari, libri proibiti e intrighi papali? È questo che promettete? Fa un piccolo saltello, mentre già si allontana, cercando di allungare il passo. C'è forse qualcos'altro che dà sapore alla vita?